metta domani dopo le 9, che io così ho fatto, l'ho messa dopo le 9 e tranquillamente fra, l'ho portato giù e ce l'hanno preso. Sì, e beh, ormai, io infatti sai che non capisco, c'è certa gente che butta questa roba per le strade, nei vioti, cioè non si paga, raga. Beh, è un servizio gratuito, il numero verde, chiami, ti danno un codice, lo appicci chi ha il frigorifero o lavatrice, quello che è, un armadio, quello che ci vuoi buttare, sai, vengo, se lo prendo, meglio di così. Continuiamo ancora a buttare la roba nei viottoli, va. Ma se ti trovano ti mettono multe esorbitanti, perché poi mettono anche le telecamere in certi posti, hanno messo le telecamere, c'è gente che non se ne è accorta e l'hanno mitigati. Specialmente quei viottoli di campagna fanno queste cose qua. E purtroppo c'è gente in civile da tutte le parti. C'è gente che viene dalla campagna e ci butta tutte le cose così, a fianco al cassoletto, qua fa lo schifo. Sento sempre gente che parla. Sì, li sento anch'io, vediamo un pochettino. Attenzione alla frequenza, attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto, cambio. L'altro giorno abbiamo parlato con tutta l'Italia, fra. Io qualche volta ho fatto qualche bel collegamento, qualche mese fa forse, anche lontano, Sì. Noi abbiamo parlato con tutta l'Italia, compreso Napoli. A Napoli sai quanto sono arrivato? 9.30, liscio. Figurati. A volte segnaloni. Comunque, no, come si chiama? Marco, mi sembra, dalle Canarie. L'ho beccato 3-4 volte, quasi tutti i giorni ci sentivamo, Faccio un po' che non lo sento. Ma una telefonata, poi per tanto tempo. Ma in banda? Sì. Avevamo frequenza, cos'era? 27... 600 qualcosa mi sembra, 680, una cosa del genere. Ah, capito. Sì, ma basta andare su 27555 e fa la chiamata e ti rispondo, poi ti darò la frequenza, ti sposti, capito? Questo praticamente è quasi sempre su quel canale lì, su quella frequenza lì. Si sposta perché non è una frequenza tipo 75, no, era 70, 80, una frequenza intermedia, dai. Ed è italiano e lì è trapiantato alle Canarie. Ah, cazzo. A me che mi ha fatto venire un zudo una volta, ho fatto break e mi ha risposto questo dalla Germania e si è messo a gridare Italia, quanto mi manchi, cazzo, qua mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, ci credi, si è messo a gridare, cazzo, come se avesse sentito chissà che cosa, era un tipo che era emigrato, capito? Sicuramente gli ha fatto venire un po' di nostalgia, dai. Ma dovevi sentirlo, quando gli ho detto che ero dalla Sardegna, Italia, zuzzu mi è giunto. E questo ha detto che è stato parecchie volte qua in Sardegna, specialmente la parte sud, però conosceva anche Alghero, sentire questa zona qua. E ci è rimasta nel cuore anche lui la Sardegna, che sicuramente ci ritornerà. Poi è appassionato di barca a vela, quindi si gira a mezzo mondo anche in barca. Dalle Canarie non dico che sia un gioco, però si può fare, dai. Sì, secondo che imbarcazione c'ha lo può fare. E tu hai visto quelli che stavano facendo la festa di compleanno, Bovarassi, sul lago poi. È venuta una tromba d'aria, si è girato la barca e ne sono anche morti. Sì, fino a ieri due morti e mi sembra un paio di dispersi, che quelli sicuramente anche quelli saranno andati a male. E mai dire mai, visto quello di Sassari che l'hanno trovato ed era vivo. È uno, l'altro poveraccio, mamma mia. Anche lì non si è scoperto la verità ancora. E la verità già si sa adesso. Si sa che praticamente l'hanno rubata quella barca a Porto Torres. Le voci erano quelle, ma da subito, che non erano farine e pareuste, però. Non parla questo qua, non dice perché, come è successo, perché a quanto pare questo non è neanche affogato, è morto prima. Ma l'ha fatto un buraido. Perché non hanno trovato acqua nei polmoni, uno che affoga, i polmoni si riempiono d'acqua, invece uno che cade a bagno, lo buttano a bagno, già senza vita, non respira, quindi non prende acqua dentro i polmoni. Ferrovia, loro sono arrivati con la moto, l'hanno parcheggiata al porto, hanno fregato la barca e sono partiti, capito? Ehi, ce ne sono sentite, di tutti i colori, dai, dai, sono bravo, però, però. È sempre brutto, dai, vai, vuol dire così, mamma mia. Ferrovia, e quello l'ha fatto tutta la notte, mica deve essere brutto, lei. Tutta la notte in mare, a Ruvredo, poi avevano dato delle coordinate sbagliate, quindi la gente lo cercava in un punto, mentre loro erano in un altro. Perché non era gente che si intendeva di mare, capito? Hanno dato le coordinate sbagliate perché sono fatti trovare in un punto, sono fatto la barca forse. È andata lei a Issu, però adesso si prende tutte le responsabilità, li stanno dal nome di furto, poi ho bisogno di soccorso, non so cosa. Lui dice che praticamente una volta che ha parlato ha detto ai carabinieri che non l'ha più visto, che l'ha perso di vista il cugino. Lui ha detto così, dice che hai letto tu vai e che io non ce la faccio più, l'ha detto così, cioè, è vero, poi. Solo lui lo sa. Vabbè, e infatti solo loro due c'erano insieme, quindi lui lo sa che cosa è successo. È anche così, il diavolo fa le pentole, ma il coperchino oggi tipo può andare bene, domani prima o poi si arriva al conto. Adesso poveraccio, quello là la barca la usava per andare a pescare, per vendersi il pesce, si usava come lavoro, ma dice che quella barca lì era stata aggiustata da poco, quindi l'aveva messa a secco, capito? Per asciugare, quindi non le hanno lasciato il tempo di asciugare la resina e si è staccato. Non lo so, qualcuno diceva addirittura che c'entrava anche quel padrone della barca, era d'accordo anche lui. Che gliel'ha dato il padrone? Dice che erano tutti d'accordo forse, ma c'è tutte voci che senti e poi vai e c'è la verità, fai sarà blu. Ma la giustizia è fina, prima o poi si scopre la verità, a tutti i dini. Sì, mi sento sempre modulazione. Quanto ti arrivano quelli di segnale? Bassi sempre. Beh, adesso non li ho sentiti sinceramente. Sai che vuole? Questo è Eugenio, mi sa. Eugenio, buonasera, e allora? Com'è? Sì, che ha indovinato, come? Vabbè, com'è andata oggi la vetta manna? Alla grande, un successone. Un successone. Ovvio, io sono successo sabato e lunedì. Lunedì sembrava rischio pioggia, invece poi meno male. San Gavino ha messo il posto di blocco lì, le nuvole non sono passate. La frittura l'hanno fatta quindi? Sì, l'ho anche assaggiata, ma insomma era un po' così, un po' carbonizzati i calamari. Ho visto invece altri piatti erano un po' messi meglio. Ci pagava? 7 euro. Perché io un periodo mi ricordo che li facevano a regalo, non si pagava nulla, adesso si paga tutto, bull'aria che respiri si paga. Almeno c'era meno fila, è stata gratis, guai. Ma comunque c'era anche io sabato, sono andato a vedere le vibrazioni e c'era la gente che sembravano formiche, quante ce n'era di persone, mamma mia. No, mai visto anch'io tanta gente come sabato. Avanti oggi. E la roba che andrà gratis, per forza la gente ci va. Ma io lo so che alla frutta del pesce non ci sono mai andato, a chi butti non mi piace. No, ieri si pagava, infatti fila non ce n'era da fare. Ma io l'avrei fatto almeno, non so, 5 euro simbolici, li avrei fatti pagare sempre alle feste, sia per insomma, fare un po' di fondo cassa al comitato, anche per selezionare un po', dai, per fare meno fila. Comunque non era nemmeno un granché, perché era la prima frittura, capito? La prima frittura nella pentola esce sempre male. No, la mia, non ripeto, non era un granché. I calamari erano quasi, non dico carbonizzati, ma infatti mi ha graffiato anche il palato. I gamberetti andavano meglio invece, vedi? Ma i calamari che ho trovato erano troppo duri. Invece ho visto piatti dopo di me, messi meglio, dai. E che cosa c'era oltre il pesce? Un bicchiere di vino te lo dà? Sì, c'era vino, birra, quello che volevi. Poi nella frittura c'era anche, ho visto, donzelle, ho beccato un pezzo di donzella, calamari e gamberetti. Poi qualcuno ha visto anche altri pesci, tipo salaghetto. Oggi è bello passare in compagnia, io va bene. No, io sono andato lì, c'erano anche Luca e cose, e Mombolo, che stavano lavorando in uno di quegli stand dove fanno la roba arrosto, e sono andato a trovarli dopo che ho visto il concerto, sono passato lì. Dipende, in che stand erano? Noi abbiamo preso la roba da mangiare vicino alla boccatura delle porte, mi sembra, erano lì, sono valorato. Insomma, tra la passeggiata e lì cosa c'è? La torre, dai, il concerto. No, loro risultavano in via Lungomare di fronte al rifornitore della Esso. No, allora noi eravamo un pochino più verso il concerto, lì. Siamo seduti, non è andato parcheggio, ma parcheggio a sederci, dai. Abbiamo preso un po' qualche panino e un po' di roba da bere. E il parcheggio dove l'hai trovato, fra? Siamo entrati dalla camionale, quindi siamo passati lungo il porto e l'abbiamo trovato lì vicino al capolinea dei Pullman. Che canna! Io l'ho trovato all'entrata del porto d'oggi, mi sono dovuto fare una camminata, ero crepato qua, Al ritorno non vedo mai più, mi sono dovuto anche sedere. Ho trovato la panchina, è stato un miraggio per me. Noi due macchine, la mia è anche grande, quindi l'abbiamo trovato subito, due macchine, due bei parcheggi. Poi lì a una certa ora non si mettono anche nel parcheggio dei Pullman, perché dopo una certa ora non ci sono più, capito? Quindi quelli che lo sanno la mettono lo stesso. No, siamo andati bene, in 5 minuti eravamo già all'interno, vai. Avanti, oggetti. Banchieri lo può parcheggiare tu, io, senza problemi. Non so. Sicuramente tu puoi parcheggiare anche dentro qualche nave lì. Dentro la nave, no, ma al posto sì, dentro il posto sì. Non c'è nessuno, tutto sta seguendo. Ce l'ha anche beato, tu c'hai il pass lì. Capito? E il posto ce l'avrei avuto anche io, ma poi chiudono e magari ci rimane la macchina dentro. La mettevo ai granai, dove ho sempre lavorato, la mettevo nei parcheggi di giù e il parcheggio lo trovavo anch'io, però poi magari chiudono e rimane la macchina all'interno, cavolo, no, non mi fido. Andiamo. E allora? No, io ho parcheggiato lunedì, dentro la Lido, però alle 9, forse anche prima che chiudano lì, stavo già andando via. Ho capito. Perché poi chiudono e non c'è Cristo che vaga, non la puoi togliere la macchina, non sai come ti va. Dormi fuori. Eia. Vabbè, già c'è la televisione lì vicino. No, ma che ne dici? Devo saltarne tutto. Attacchi al gancio di trailer, al cancello. Ho stato dentro anche la troppa, da 4 metri, quella piatta larga che usano le braghe, quelle gialle da non so quante tonnellate regano, quelle lì. Metti la prima ridotta, piano piano e la cammina. Eia. Vabbè. Ma le sei messo i rimedi di Aisho, no? Poi ti vado a pagare il totale del danno, però. Ci mancherebbe. Vabbè, adesso è tutto finito oggi. Adesso c'è il concertone a Sassa di sabato, se non lo sapete. C'è il concertone. Quello che dovevamo fare settimana scorsa. Le temperature è un bel concerto, ho visto molta gente gasata, che mia cognata, anzi le mie cognate, tutte e due gasate, molto contente, cantando a squarciagola. La Sassa di chi c'è? Sassa mi sembra che c'è l'azienda, i collage, eccetera, eccetera, roba sarda, ci sono piloni anticorpi, mi pare, tutte queste persone qua sarde, dai. Ma è meglio della scuola di ballo, dai, come un'altra volta, cosa era? Non ve la dicevo. Luca, ci sei? Sì, sono qua. Bene, amico mio, Pototorres. Luca già di Sassari, e beh, fa furcio. E io in chi va posto d'ora, te di. Ma la gentesi, non lo sapevo, se sei passato a fare il panino. Ah, panino però, non più di un'ora. Lì c'è la vita da fuori. Ci sono i panini allucinanti. Basta fare che me lo dicessi, io sarei venuto. Vabbè. Va bene, lui, anche tu vicino al riponitore? Sì, a di fronte. Comunque hanno lavorato a tutti, Sì, infatti, più o meno. C'era la gente come le formiche, hanno arrivato di là. Quelli del torrone hanno detto, guarda, visto che mi lascia la pioggia, lunedì, me ne potrei anche andare, cioè, sono contentissimo per come è andata, dice, la situazione economica. Dai, ce l'hanno fatto su di un pacco di anni fa. Vabbè, dai, meglio che muovere un po' l'economia. Lo so, ma devi approfittare di queste giornate. E come facevi a non fare i studi? Vera la ieri i variani fui miguri, poia. Ma poi non è solo in un punto, no? Era da tutte le parti così. Se andavi partendo da via Indipendenza, lì dove c'erano le bancarelle, fino a scendere giù, tutto quanto pieno di gente, tutto pieno, giù in via mare ce n'era una marea. No, dappertutto, non c'era posto neanche a passare, invece lunedì era più tranquillo perché siamo scesi presto, dopo cena, poi mi serve anche un pezzo del Folletto, quindi ne ho approfittato. Ma lunedì è finito tutto praticamente, c'è più niente. Sabato e la domenica la festa clou, che poi se vai a guardare bene la festa di San Gabriele è lunedì, però vabbè, si festeggia il sabato e la domenica, perché poi la morte della gente la domenica, il lunedì la vola. Sì, lunedì siamo andati a salutare i santi, in chiesa lì. C'erano un paio di comitive di francesi, se non sbaglio, tutte con gli auricolari ascoltando la traduzione in lingua. No, c'era movimento anche lunedì, dai. Comunque in 3 giorni ha fatto 1000 panini. Se ne ha fatto di dirà. Si è sudato di burro, Ho capito, ma ci sono le volte che compri la roba, magari la gente, ci va poca gente. Meno male che abbia venuto così. Sì, sono in panini 7.000 euro, poi bibite, ghidu, vidaccio, patatine ne ho venduto a quintali. Sì, anche noi lì, panini 7 euro. E tu dovevi farlo lì, quello pieno, tu quel panino manco te lo mangiavi, un su quelle patatine, insalata, pomodoro, kebab, oppure c'era l'altro, la porchetta, ma pieno, proprio te ne esce dagli occhi, non ce la fa a mangiartelo. No, io non ho neanche mangiato, la verità, perché ne stavo rientrando da un compleanno, però gli altri che erano con noi hanno preso i panini, ma ho visto che erano abbastanza contenti. Le patatine erano un po' scarse invece, ce l'avevano quasi, hanno fatto un tuffo nell'olio e basta, erano ancora morbide, non erano croccanti, però ci sono passate anche quelle. Io ho dato una mano con la birra e basta. Ah, anche tu l'hai provato? No, una mano a bere. No, qua le patatine le vidi anche troppo. No, comunque nel totale visto già si è lavorato, meglio così. Avanti, Eugenio. E croccanti anche. Ma la festa grande è di solito, lavorano tutti. Capito? È raro che non lavori alla festa grande. Se non lavora uno, non lavora nessuno. Perché alla festa grande lavorano tutti, non c'è. Hanno lavorato bene anche i locali. Lunedì, ho preso 2 birrette di quelle, come si chiamano? Redler, quelle a limone, 8 euro, mi sembra un po' caruccio, in un bar, non in un chiosco, in un bar. Perché le approfittano, no? Queste feste qui magari lievitano un po' i prezzi. Però adesso le bancarelle, prima se le hanno fatte a Pordenone, adesso vanno a Sassari, se li fanno a Sassari sud, che forse è diciamo la festa della Sardegna, quindi c'è un bel di gente lo stesso. Domenica, adesso vediamo. Domenica, sì. Sì, sabato c'è il concertone e poi domenica c'è la cavalcata. Allora, ha messo pioggia, eh. Ah, vero, torna. Domenica ha messo pioggia. Cioè, oddio, questo casino. Sta rinviata anche la quella di Alghero, la Mira Alghero, un cazzo di giamma. Ma maggio, Bari, maggembre. Quest'anno proprio il tempo là. Tu pensavo dopo si pensavo, ma sa se stava più non domenica. No, lunedì. E invece la polottola è sotto due gocce contatte, stava facendo l'aria nera, forse ma il vento le ha spostate, le ha mandate via le nuvole, e non ha più avuto lì. Infatti lui voleva smontare tutto, aspetta, gli ho detto non smontare, ti fai a 3.000 euro, buoni voli devi fare, mi gocce è stato. Però io avevo la nuvola appresso, da Sassari fino all'ingresso del portatore, poi non ho visto più niente, meno male, dai. E adesso a Sassari lavori lui? Sì. Sempre con la bancarella? Aspettando. Luca, stai lavorando al Pagnaro? Non ho capito. Stai lavorando al Pagnaro? Dove lì, alla bancarella, dove fanno i panini? Sì, stanno un colpo di mano. Ma ci sei anche a Sassari? Sì, già. Sei anche a Zona 7? Ma l'ha detto, se non mi ricordo dopo. Anche se io sono fuori un paio di giorni, non ci sono. Però mi sa che mi so pioggia. Via. Speriamo bene, dai, succeda come questo weekend passato, che migliori un po'. E almeno dà un po' di respiro a questa gente che vende le bancarelle, tutto quanto. Vendono qualche cosa in più, dai. Queste feste grosse così sono una bella boccata di ossigeno. Lo so. Ma tutti lavorano bene, questi... C'erano le bancarelle, sia di vestiario, sia di panini, eccetera. Guadagnano un sacco di soldi, sembra così, ma guadagnano un bel. E comunque pioggia. Sabato 80%, domenica 80%, lunedì tutta la grida. Cosa dicendo? Che figa. Io me ne vado al mercatino della roba a seconda mano antica. Pezzi di macchine, di moto, di quella seconda mano, belle, che la fanno Auristano, sono grande, bella. Solo macchine, cioè a moto, macchine, roba così? E di tutto trovi, ma la maggior parte è moto e macchine. Avete parlato in due? Due. Ho detto che trovi di tutto, però la maggior parte sono moto e macchine. Ho capito, chi sta suonando la chitarra? Io. Ah, tu si sente fortissima, più forte della voce si sente. E poi chi è che è entrato? Io, non mi sentite qui nel senso Mike, buonasera. Buonasera Tino e buonasera anche Antonio. Avanti Antonio. Ciao Tino! Antonio che sta cantando Eugenio. Eugenio, mi stavi parlando insieme a Antonio. Dai, rilanciamo anche a Tino. Avanti Tino, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Eugenio. La festa è finita lì, da quelle parti? Sì, è finito tutto, è finito tutto. Ci sono stati contratti, si sta ancora smaltendo e niente, è finito tutto. Io sono rientrato alle 5, da quelle parti stava piovendo a dirotto. Vabbè, poi stava facendo l'ho persa però, Ma quando? Lunedì? Ho fatto un lavoro lì più avanti dove abbiamo il cantiere, dai. Ah, ecco. Sì. Ma Luca stava dicendo che ha piovuto. No Luca, chi me l'ha detto? Che stava piovendo poco. Ma lì a Portatore, io sono lì dalle parti del Rosario. Ma dice che a Portatore già ha fatto due goccioline e basta. Ma che due goccioline? È passato la furia vera. Ma quando? Allora, a Campanella alle 2:30 mi è scesa l'aria, poi ho smesso, ho ripreso alle 4, dalle 4 alle 4:30 è iniziato a piovere, forte, e sia alle 5 come sono andato io da Portatore stava sempre piovendo, dopodiché lì a... diciamo, la strada del ritorno di, degli punti era già più calma la cosa, Ma stai parlando di oggi? Sì, sì, sì, dalle 17 in poi. Perché io parlavo di lunedì, che pioveva qui a Sassari, invece Porto Torres non ci è arrivata, è arrivata al limite, alla Libedriate, è arrivata lì a Lilioni, si è fermata la pioggia. Dimmi una curiosità, come sei come alimentazione? A volte vedo dei picchi un po' negativi, come che ti manchi alimentazione? Sembra che sia tutto regolare. No, adesso erano positivi. Poco fa, mentre parlavi, ho visto che scendeva un po' negativo. Adesso è andato bene. Non so cosa dirti, perché non ho toccato niente. Adesso è perfetto. Va bene. Voce, ma modulazione è fortissima. Sono contento, devo disturbare. No, perché? Sì, non c'è l'amplificatore interno. Io musco, ma per parlare con un muro? Hai capito, bello bene. Ho tirato la portante. Ah, mi senti allora, sì. Certo che ti sento, perché non devo sentire uno. Perché c'ho un'altra di gomma. Vabbè, ma quando prendo un po' di umidità già funziona. Ah, quello sì. Fa un po' io, non vediamo se non mi sente. Va bene ragazzi, io sono in quel rischio, sto facendo cosa anche dall'altra parte della camera. Vi saluto tutti quanti, sono entrato a salutarvi, mi ha fatto piacere ascoltarvi, continuerò ad ascoltarvi, nel caso magari più tardi, se coincide mi faccio una chiacchierata, ora sono un po' impegnato, però vi ascolto, Ciao a tutti, riprendi Gianni. Ehi, ciao Tino, buona continuazione di serata, siamo qua, se vuoi rientrare non c'è problema, è sempre un piacere, Avanti Fra. Ehi capo, ciao Tino, alle prossimine, buona serata, buon QRX. Vediamo Bombolo se mi sente, a me Bombolo. Ehi, mi prendi per i saluti a Tino. Tino. Mimi, schirriendi, Emmi. Schirriendi, siamo intendi, sì. Stai lievitando con una torta. È un po' saturo, però. Vado a scaldare, avanti lui. Sì, altri sono vicino a posto, non mi sente a me. Pensavo. Ehi, aspetta, c'è anche Eugenio per i saluti a Tino. Avanti Eugenio. Ehi, ciao T, che ti dimmo, ciao bello. Oh Gianni, doppio rumo. Dimmela. Quanto ti arrivo? Guarda un po'. Cioè, lasciami mettere gli occhiali. Guarda un po', metti gli occhiali, metti. Metti gli occhiali, metti. Prova. Metti gli occhiali, metti. 9,50. Solo. Come solo? Se possiamo arrivare ai ragazzi, 1,80, 1,90. L'importante c'è. È Gianni, Chi è? C'è. Chi è stamattina la portante? Sì, di nuovo, mi. A me la stavo mettendo. È il capo di cazzo. Il mio amico ha detto che ha capito che ha problemi e che lei ha detto che praticamente ci ha saluti alla sorella, capito? Sto per venire, lei ha detto, no, io non ci ha saluti, devo fare perché... Non diciamo che avrà i problemi. Dice che con la madre non andava d'accordo per niente, adesso la madre non c'era lì, era sempre col muso incazzata perché la vedeva sempre seduta e si incazzava la mamma. Gianni, schiaccia bene il microfono che a volte manchi di segnale. Non sono io, no, io sto parlando al cellulare. E chi è? Qualcuno che non sta uscendo sicuramente, io se schiaccio con qua. Guarda, io adesso sto schiacciando e c'è anche la portante sicuramente. Sei tu già. Mi sta mettendo la portante su di te. Su di me? Sì, Lani. Yes. Su di me, che bello. Perché? Hai fatto qualcosa? Ma poco siamo importanti, anche la portante ci mettono. Eh sì. ho già capito chi è. Ma lo passo fra. Già ci sentiamo, là. La dea pulisce la faccia in culo. Luca sicuramente è in zona, Sì, lascialo qua. Si fa problemi, basta dimmi, dopo un numero mi chiama, si fa problemi. Qui è sui 9.40, dai, va. Allora è più vicino a te, fra, perché 9.30 qua. Vabbè, il mio è un smitter di silicone, no? È arrivata un'altra domenica, domenica il sabato sera. È Eugenio, come gli arriva la portante? È Eugenio. Io ti sento. Io non ho neanche visto portante. Perché pensavo che arrivasse forte anche da voi, dai. Lì, da quelle parti. No, lo faccio tranquillamente. Vai, andare, dai. Gianni. Sì, mi hanno mandato un filmato dove c'è tutta la gatta. Aspetta che lo vedo questo. Fai vedere le banine dai giunta la fammine. Tiesi, tutto l'ubifragio a Tiesi c'è stato. Dove Tiesi? Tappa. Ora, vai Santi, non la buona. Cosa hai molto sotto? Un foglio di giornale adesso. Cazzo, da Santiago 2-3, mi base, dove sei 9.15. Segnali, boh. Adesso pochi, ya. È un po' la radio ti mangia, però il segnale è fortissimo. Mi non scioglie la mia. Buonasera, Antonio. Ma di là così. Non ho così. E non mi hai salutato. Beh, con ragione, se lavori di notte è normale che qui dormi di giorno. Un po' di riposo devi averlo naturalmente. Franco, avanti. Mamma mia, tanto. Ottimi, mamma mia. Comunque non ce l'ha solo con Luca, perché mette la portata anche quando parlano gli altri. C'era un questo troppo tranquillo, capito? Se non c'era lui a rompere. A Franco lo passa. Io ascolto tutti. E a me non passa. Se stavi parlando, sì. Sì. Uno si doveva prendere le radio per rompere le scatole agli altri e sprecare energia elettrica. Almeno entra e fate una chiacchierata tranquillamente. Anche perché abbiamo un ospite da Porto Torres. Sì, ma problemi però. No, ma a parte quelli. Problemi di trasmissione. Porto Torres. Poi. Ti saluto, dai. Tanto qua non si può non si può fare niente. Un abbraccio a tutti, inizio a prepararmi la cena, dai, forse è più importante. Un abbraccio a tutti, riprendi Luca. Sì, ci ho fra bacia, anche a te, anche mi alzo e vado a mangiare il cane. Ciao fra, non è tranquillo, se io ho portato non è sento. Ma qui è forte, capito? Adesso ho messo l'acqua, vediamo un po'. Dai, continuate voi, dategli mattana, dai. Un abbraccio, ciao Gianni, ciao a tutti. Ma non è che tu che fate la cosa automatica? Adesso non ce n'è più. Ci sentiamo, buona serata e buona carica quando la fai, grazie per il QSO. Ah già, adesso non si senti più, è la radio tua, no? No, non è Gianni che a volte la mette anche quando parla Gianni. La radio mia, prima ero con l'altra radio, adesso ne ho messo un'altra, c'è sempre. Attento, dai ragazzi, buona serata. Ciao fra, avanti anche tu. Anzi, ciao anche Antonio. Luca. E via. E prendi. Sei assomigliato, devo mangiare a sera, dai. E anche io lo devo fare, dai, devo portarla anche giù io. Mi sto aspettando, ma un altro po' mi posso trattenere ancora, dai. Un altro po' mi trattengo. Sì, per niente. Vuoi morire dopo il lavoro. E tu non lavori oggi, Flu? No. Scappa. Deve essere bello il concerto, quello che devono fare sabato, io ci salgo sicuramente, ma vengo a piedi perché in macchina è un casino. Da solo sempre? Non lo so se vengo solo in compagnia, non lo so. Se trovo gente, come se vengo da solo, me ne ha fatti nulla. Ah, vabbè. Diciamo che vai, con qualche amico ci può anche stare, dai. A me mi è andata male l'altro giorno, capito? Perché poi si è sentita male quella persona e era tutta la notte che stava male. E quindi non ci è venuta per quello, sennò la compagnia l'avrei avuta. E niente, c'era altra gente giù, ma che sul telefono vai e senti le mezzo a quel concerto. Immagino, non ci vuoi fare purtroppo. No, io sono sdraiato, altro, sta troppo bene. Sdraiato e niente, sta bene così. A me non mi riposo un po', dai. Ho fatto mille cose oggi. Cazzo, si sente queste scale, trovo che lo sentite? Avanti, attenzione. Ehi, Antu, dai, a che ora devi entrare? E allora stai già lavorando tu parlandole. Ah, tranquillo, ce la dice, viene il tempo, viene il tempo di mangiare, fatti la luce, ti fa tutto quanto. E Antu, non c'è problema, va. I bambini sì, e poi quando sente la voce la madre sorride, no? Ma sai la prima parola che ha imparato Manuela, qual è? Papà. Ma mi chiamava Papane. Papane! Normalissimo. Secondo me mi associava con la roba da mangiare, perché ero robusto. Ehi, lei tutti i bambini sono così, come sentono le voci, poi riconoscono le voci dei genitori. Avanti Luca. Quanto mi brucicchiano gli occhi, cazzo, mamma mia, eppure già c'è dormito, non recuperare ancora. E altro, ha ragione, anche io facevo la stessa cosa. Io lo ninavo, lo prendevo in braccio, lo cambiavo, lo lavavo, a volte la madre aveva l'udrivoloni, nel senso che quando non ci faceva dormire di notte, e poi anche il fatto dell'allattamento stanca, capito? L'aiutavo, è normale, perché poi dopo il parto possono avere anche depressioni post parto, si chiamano, no? E praticamente pensano di non farcela, se vedono un uomo che non l'aiuta si esauriscono. E a Pordenone è tutto bene andato, tu? Cosa hanno fatto? Sono contatti che possono succedere quando non sai quello che c'è, perché ti deve far vedere tutto quello che c'è, quello che non c'è, e se no tu come fai a sapere qual è il suo, qual è dell'altro? È un casino, eh. E vabbè, e lì in piazza devi stare fuori, in piedi. Ma guccate, non ti buguccia. Già lo so, era una battuta. Avanti Luca. Vabbè, lui costa 70 euro poi per fare la revisione, non so quanto, 30 mi pare. C'è una cosa che ti butta via da bambù, no? Era bello che servisse, c'aveva tutte le luci distorsori, c'aveva, l'ho visto, c'era uno che era proprio impegnato lì, per guardare i distorsori, come andava a regolare la musica, eccetera. Ah, non è loro il servizio. Ho detto che mi toccava il cuore quando suonava, lo sentivo nel cuore. Lo so, quello lì è un complesso conosciuto, quindi deve fare bella figura. Sì, era un bel impianto, non c'è niente da dire. Solo che dopo tre canzoni mi sono allontanato perché non mi piaceva, non le conoscevo, non è che non mi piaceva, non le conoscevo, e quindi ho detto va, stanno facendo canzoni che non conosco, poi ritorno. Invece poi mi sono messo a parlare con voi, ho detto dai ragazzi, basso dai nobili, si c'è dritto, non stare a fare di nuovo tutta la strada in mezzo alla gente, ui, mamma mia. Cosa c'era di gente? Porca miseria, mai vista l'aveva a San Gavino tra la gente così? Sì, la gente c'è stata sempre, ma così no, mai. E lo so, lì bisogna trottare, non ti puoi salvare con le mani in mano, l'equipe è a rotazione. non ti ce la c'ha a fare il panino anche tu, non riesci a fare. Luca. Uscito fuori un'altra, aspetta che è stato, qua ci bisogna dove magari attaccato. Uscito fuori, devo andare a mangiare la Delia, già aspetta 10 minuti da un quarto d'ora. Interessante che poi ci sia il resoconto della serata, anche se fai fatica, però poi ti trovi i soldini. Già, già sentito lì sono un bambino di continuo. Sono un bel sì, infatti lavate i buchi. Solitamente sono in tre che li vanno. Voi eravate in tre, si battuti agli spiedini, loro per fare i palini almeno in tre dovevano essere. In cinque siamo. In cinque. Io ne ho visto quella signora, il tipo quello grosso e tu, non ho visto altro. Poi c'era Antonio che stava facendo l'osservatore. E poi c'era una figlia e poi un'altra. In cinque. Non farà veramente, come cazzo fa? È impossibile. Sì, veloce, buoni anni e anni va a fare i bani, altro non è così, no, non è così. Anche io allora se ho fatto 3 giorni non mi ci metterei, manco a fare le balle, lasci veloce. Un minuto ci vuole, 50 secondi massimo, un minuto, non di più. Fare un po' di un minuto non è semplice, non può fare uno che lo fa tanti, hai 20 anni che lo fa quello, uno non è l'imparare, non è che l'impara a guardare così da oggi all'indomani, ti deve essere in chimici in capo. Quello, infatti. È stressante, lui, è stressante. E chissà quando tornano a casa che trovano il letto, sarà un miraggio. Lo so, io lo so. Ti ha parlato bene anche tu. Il primo che chiama sempre Antonio. Antonio è il primo in assoluto per lavorare. Va bene così allora, dai. Sei una persona onesta che paga bene, fa piacere anche lavorarci, capito? Ci sono quelli che ti sfruttano, ti dai 30 euro, vai, e via. Una banca. Lì è come più lavori più guadagni, quindi se ti dai da fare ci ho reso conto, se non ti vai a fare ti rompi i luci, devi avere velocità, c'hai ragione tu, e devi essere inquadrato su quello che devi fare, non puoi, perché a volte uno si confonde, capito, e prende una cosa invece che un'altra, invece ti devi essere proprio coordinato, specialmente con l'altro che sta facendo l'altro lavoro, non ti devi pestare i piedi, eccetera, non ti devi sbattere. Secondo me una banca, non da di fa. È così. No, ma poi io sono andato a colpo sicuro perché alla fine, come si dice, alla fine è un amico di un amico. Non ci ha pensato lui di farlo anche tu, quel lavoro lì? Già, non è facile, no, non è così. Non è facile, capito? Ci vogliono soldi, ci vuole il mezzo, e io non mi dico di nato. E fare un lavoro così, ci vuole la rifarrafa, un 20-30 mila euro per iniziare. E metti a fare lo zucchero filato, lì c'è il guadagno. Compri un pacco di zucchero che costa meno di un euro e ti fa penso una settantina di zucchero filato e lo vendi a 1,50 euro l'uno, fatti un gonfio. Ci esce più che la giornata. Ora ha chiesto di gente che ha fatto anche 800 euro a serata. €800 con lo zucchero filato. E allora? Io e lui ci mettiamo in tram, la macchinetta ce l'ho io per lo zucchero filato. Vabbè, lo so perché questa gente che vede le bancarelle li fa i soldi, specie nelle feste così grosse si fanno bene di nato. Ma lui è! E tu? È perché deve essere sballato, scusa. E io ci vede che un bambino arzillo. Fallo modulare anche tu. E Marcolino da piccolino gli piaceva il baracchino, gli piaceva parlare. Entrava sempre. Poi a volte io non c'ero a casa, ero al lavoro, stavo tornando con la macchina. Papà, rientrando stai, accendeva il baracchino da piccolo. E la vai a vivere di tanto. E loro adesso scoprono tutto, capito? Gli piace scoprire le cose. Adesso come comincia a camminare? Gavetti di tutti gli oggetti che ci sono, si sono rampaduti in terra. No, ma anche i soprammobili, queste cose qua, ce le buttano tutte in terra, perché voglio sentire il rumore, capito? Mi piace sentire il rumore, quindi la pari tutto in terra. E allora, è così, noia. Vabbè, è una gioia avere un figlio anche tu, goditelo bene. Ma quel bombo che si può usare anche col baracchino. pressioni, che apparato stai usando? Superstar, allora devi praticamente i fili di sopra li devi mettere sempre in parallelo come sono, quello di sopra sotto e quello di sotto sopra, devi solo invertire e basta. No vabbè, per saperlo, se vuoi fare una prolunga magari ti fa una prolunga e te lo usi anche così, lo provi, dai. Non lasciare nulla che possa prendere, perché come cominciano a camminare piace scoprire tutto, prendono la roba, la buttano in terra, te ne renderai conto, dai. Lasciarli nulla che possa toccare in basso, specialmente in basso proprio togliere tutto, se è la roba in alto no, ma se è in basso bisogna toglierla. E io adesso mi sono arrivato al secondo apparecchio, adesso attacco un po' il Galaxy e poi me ne vado a portare giù il cane, dai. Si dicono qua. Aspetto che attacco Galas. anche lei quando l'avete trovato. Che figo.